Jean-Marie! E chi è? Certo, buonasera! Buonasera a te! E beh, come si fa, come si fa? E come si fa? Ah, si dorme? No, e che affetta! No, io sono sveglio sempre io! Solo che non mi sento bene, capito? È quello il fatto! Oh, stamattina sono andato a fare delle analisi. Arrivo a casa pure freddo a brividi, ma freddo, mi c'è un coccato, c'è un tappato, beh, era una mina citato e a mangiare, ma io mi sento più bella, però no, sono io là. Deve essere che preso freddo dove eri. Cazzo, il coppolare senz'altro ho preso, cazzo. Sono sempre, tutto a dolori, boh. Cazzo, allora il dolore dei bracci me l'ha abbassato, allora mi sono torrente. Così che mi sto guardando la TV e poco fa ho acceso. Non c'era nessuno poco fa, adesso è rientrato. No, io è venuto mio nipote e cosa, era acceso sì, ma potevo, stavo parlando con lui, se n'è andato e domani mattina parte a Londra, l'ho preso. Ah, da dove farsi, da Olbia? No, lui parte da Olbia, io lascio Ghinoghi. Lui parte da Olbia e va a trovare a mia figlia con il fratello, va a trovare a mia figlia per una settimana. Ah, beh, c'ho dovere, bisogna fare ciò quello lì, e fa bene. Fa bene, meglio così. E cosa vuoi fare, un macello, un macello. Poi non ho voglia di parlare, non c'ho voglia, non c'è crisi, è già una settimana che non c'ho voglia di parlare quasi niente. Mi stufo subito e devo spegnere, capito? Boh, non so perché. Cazzo, questo altro slado è già 15 giorni e più. Forse magari per quello, questi dolori, eccetera, capito? No, perché sei un po' nervoso, non sai cosa devi fare, le cose, non ti va di ascoltare nulla, fare. Ma già passa questo, e a voglia. Certe volte mi sforzo, però no. Sono costretto a spegnere tutto. E cosa vuoi fare, ragazzi? Dai, non vinne gana, capito? Io ho capito, sì. Che c'hai anche un po' di paranoia sopra. Anche quello c'è in mezzo. Quando uno lo sa bene, è inutile, le cose deve fare. È un macello, ieri mattina sono uscito lo stesso a fare una visita all'ortopedico. Oggi devo fare, oggi ho fatto le analisi per la diabete, così che magari forse ho preso anche qualche freddura questa mattina presto, capito? Mi ha beccato di nuovo. Infatti, perché la temperatura è bassa, è tutto, e quindi ti ha trovato in bico e ti ha pizzicato d'ora. È un macello, un macello al tuo, per carità, e dove fare. Aspettavo, pazienza, vivo, cosa vuoi fare? Allora, ciao, prendo la busina, mi misuri, vediamo un po' cosa, si ripassa un pochettino. No, già ci sentiamo dopo, dai, che me ne vado in cucina un pochettino, almeno, anche se è più bussato, vado male, pure i giappi. Già sentiamo dopo, ok, Gianmarino. Se, ecco, sento qualcuno che sta parlando, se no, arrivederci. Ah, ci sentiamo, Gianmarino. Ehi, ehi.